Ci siamo lasciati la settimana scorsa con queste vostre bellissime espressioni attonite sulla galatea di Raffaello. Le vostre facce erano bellissime. Se volete un consiglio, questi testi anche dell'Abscondita, cercateli in via Po, perché io sto scoprendo ovunque, sto scoprendo una città sempre più pericolosa per quel che riguarda me. Nel senso che è l'Eldorado dei libri, tra l'altro sono libri nuovi, ancora sigillati, che costano meno della metà, per cui piuttosto che andare in alcuni negozi di cui non faccio il nome, che tanto sappiamo tutti quali sono, i soliti circuiti, prima di acquistare i testi fatevi un giro sulle bancherelle di Via Po, e non solo di Via Po, insomma. Anche questa mattina sono riuscita, per dirvi, proprio venendo in Accademia, a trovare un catalogo, tra l'altro curato da questo splendido museo di Lugano, dal museo cantonale, su Modigliani. Erano 10 anni che lo cercavo, 15 anni che lo cercavo, sui vari motori di ricerca, costa intorno ai 100 euro, questa mattina gli ho quasi fatto un piacere a portarmelo via, insomma mi ha detto mi dia 10 euro e va bene così. Capite che diventa una città interessantissima e economicamente pericolosissima, perché da uno sono uscita con 4, poi gli ho detto me li tenga lei perché non ce la faccio a portarmi fino in Accademia. Quindi fate, non dico di fare come faccio io, ma date un'occhiata senza poi andarvene con le carriole. Poi se lo fate io sono felice per voi, meno per me, perché più ne comperate voi meno ne trovo io. Ma guardate lì, visto che costano meno della metà. Se poi avete anche la fortuna di trovare il primo testo che ho messo in bibliografia, che è non più edito, che nei circuiti internazionali costa intorno agli 80-90 euro, se lo trovate qui regalatevelo immediatamente perché non si trova più. E qui se lo trovate, lo trovate che costa 25 euro perché è considerato, perché chi ve lo vende sa cosa vende. Se non lo sa, anche voi potreste portarvelo via per 10 euro e sarebbe fantastico. Avreste la mia invidia. Appunto, dicevo, torniamo alla lezione. Ci siamo lasciati la settimana scorsa facendo questa carrellata insieme. P- passando appunto da Campin o Campin, come preferite, della Madonna del Parafuoco. Siamo poi entrati nella pala, due pale Mantegna, quella della Madonna della Vittoria e quella di San Zeno, alla quale torneremo, per poi spostarci, se vi ricordate, nella cosiddetta Sacra Conversazione di Brera di Piero della Francesca, per arrivare fino alla Galatea di Raffaello Sanzio. Quel discorso mi serviva per introdurvi l'opera dalla quale iniziamo a parlare di Hieronymus Bosch. Non è la prima opera di Bosch, ma diciamo che è un'opera che ci aiuta ad entrare in Bosch, artista che vedrete non è poi così di semplice approccio, anzi, è un fiammingo ed è anche un fiammingo che in un certo senso raccoglie tutta quella che è la tradizione che abbiamo visto finora della pittura fiamminga, e guardate che noi abbiamo visto solo qualche brevissimo flash, perché avremmo dovuto analizzare tutto Van Eyck e avremmo anche dovuto analizzare tutto Campin, o Campin, perché sono i due artisti che diventano proprio un cliché, che diventano delle regole per i 150 anni a seguire. Per cui le impostazioni delle pale d'altare che abbiamo visto, l'importanza dei metalli lucidi, la prospettiva multipla, o meglio i punti focali multipli all'interno dei lavori, i più punti di luce che entrano all'interno della tavola, questi calembour, questi piccoli enigmi, queste sfide sulle superfici convesse, specchi o pietre che siano, rientreranno proprio nella storia della pittura fiamminga, saranno la storia della pittura fiamminga, e noi ne abbiamo visto un flash. Giusto per capire in che contesto vada a inserirsi Hieronymus Bosch, che è un artista che solitamente si studia poco, si studia male, e quando lo si studia ci si rende conto che è veramente la summa, il riassunto di quattro secoli, tre secoli di storia dell'arte precedente, non successiva, a differenza appunto di Van Eyck e a differenza di Campin. I due grandi capiscuola della scuola fiamminga sono l'origine. Hieronymus Bosch è il riassunto. Per cui, mentre dai due dai quali siamo partiti nascono tutta una serie di regole, di situazioni, di impostazioni che verranno prese proprio a modello canonico da tre generazioni, se non quattro generazioni poi di pittori che verranno dopo nelle Fiandre, Bosch è, diciamo, la memoria di tutto quello che fino a lui è stata la pittura nelle Fiandre. E questo è ancora più complicato. Perché? Perché naturalmente nel suo riassumere, diciamo così, i due capiscuola sono costantemente presenti. Il colore, la luce, la prospettiva, ma le tematiche sono veramente legate all'epoca e al luogo, e molte tematiche che affronteremo sono legate a delle tradizioni molto antiche che hanno origine in alcuni casi nel cuore del Medioevo, in altri ancora prima del Medioevo, e molte di queste tradizioni sono fortemente locali, fortemente legate al Brabant, questa area geografica magica per la storia della pittura, non fosse altro che sarà poi la regione che vedrà nascere la maggior parte delle opere famose a noi giunte di Vincent van Gogh. Per cui Brabant, si scrive Brabante, per cui è complicato molte volte affrontarlo perché abbiamo dei forti limiti, non siamo olandesi, meglio dire, non siamo fiamminghi. Personalmente non sono cresciuta nella culla del protestantesimo e quindi molti elementi ci sfuggono o perlomeno ci inducono a studiare moltissimo, cosa che probabilmente per chi è cresciuto in un determinato ambiente risultano essere più dirette, più di facile approccio. Per cui, essendo tra l'altro un fiammingo, su questa artista non abbiamo fiumi di documenti. Molto di quello che noi abbiamo, anche della sua biografia ufficiale, è ipotizzato da parte di fior fior di storici dell'arte, perché Bosch è stato studiato molto e in modo anche molto approfondito. Ma non abbiamo grandi documenti su perlomeno la prima parte della sua vita, e per prima parte intendo tutta la preparazione artistica anche. Noi lo incontreremo da un certo punto in poi, dopo il matrimonio, adesso ci diciamo anche un paio di cose sulla biografia che possono aiutarvi, da un certo punto in poi, dopo il matrimonio, perché si occuperà degli affari di famiglia e sposando una donna molto facoltosa avrà a che fare con compravendita di case, terreni, e quindi abbiamo, diciamo, a livello catastale delle pezze giustificative, sappiamo più o meno dov'è e di che cosa si occupa in un determinato periodo. Ma la parte artistica, vi ripeto, è quella sulla quale sappiamo di meno, per cui con chi ha studiato, quando ha studiato, per quanto è stato a bottega, facciamo fatica a definirlo, ci diamo più o meno delle date, ma sappiate che sono tutte date sempre da prendere con le pinze. Talvolta firma le tavole e questo ci aiuta, ma se è un trittico, come vuole la tradizione, firma solo la tavola centrale sul retro. Guardate che anche Mantegna, se firma, firma sul retro della tavola. L'idea di firmare a vista è una cosa assolutamente a noi contemporanea. Era considerato un'azione di estrema maleducazione, di egocentrismo, di messa in mostra. Capite che poi dalla Rivoluzione francese moltissimi elementi che riguardano la vita dell'artista cambiano in modo radicale. Vi dicevo, il problema qual è? Che se firma un trittico, firma la tavola centrale. Per cui gli due sportelli laterali non sono firmati e molto spesso sono stati smontati e venduti o donati. Oggi, per poter vedere un trittico intero, in alcuni casi dobbiamo scomodare tre musei diversi, di tre nazioni differenti, perché magari una tavola è finita all'Albert Museum, il Victoria and Albert Museum, alla National Gallery, ancora più facile, di Londra. Altre cose sono in Germania, dei pezzi considerevoli li possiede Venezia, le gallerie dell'Accademia, e quindi di questo siamo contenti molto. Ma riuscire a fare una vera mostra su Bosch è complicatissimo. E molto complicato è datare queste tavole, perché quando le firma non le data. E quindi anche qui si è dovuto attendere i giorni nostri, soprattutto la seconda metà degli anni 90, per poter datare o perlomeno legare alcune tavole ad altre. Perché agli inizi degli anni 90 la tecnologia scientifica è arrivata ad un ottimo livello attraverso anche tutta una serie di lastre, di analisi, oltre gli ultravioletti, per fortuna, che hanno permesso agli storici dell'arte di andare a verificare le proprie ipotesi con attribuzioni, legami, datazioni. E quindi l'età del legno e la reazione chimica con l'olio ha consentito di attribuire a determinati periodi alcune tavole che magari erano state datate fino a quel momento dalla tradizione, magari 20 anni prima o 20 anni dopo, rispetto a quello che poi dalla ricerca scientifica è risultato emergere. Però capite, anche lì, cioè sulla datazione siamo sempre comunque con delle incertezze. Perché? Perché io posso dire che quella tavola non può essere stata dipinta prima di quell'anno, d'accordo? Ma può essere stata dipinta anche 10 anni dopo, perché un pezzo di legno non viene utilizzato immediatamente, deve stagionare, altrimenti crepa, altrimenti lascia uscire della resina, cioè ci sono dei tempi tecnici. Pensate, non so, se voi dipingeste seriamente, nel senso se fosse la vostra professione e dalla mattina alla sera faceste i pittori, voi sicuramente in studio avreste metri e metri di tela per i vostri lavori. Il fatto di avere una pezza di tela comperata quest'anno non significa che quella tela da voi venga utilizzata quest'anno, potreste usarla anche tra 20 anni. Perché resta dietro ad una pila di telai, perché non vi piace, perché ha una gradazione di bianco che vi sta antipatica, perché vi siete resi conto che la biacca lega male, perché l'avete comperata o perché vi è stata regalata o costava poco e quindi l'avete presa comunque e ve la siete dimenticata. Le tavole funzionano più o meno nello stesso modo, se non peggio. Perché? Perché io le posso datare. Però io mi ritrovo magari ad avere dei pezzi di tavola che mi sono stati regalati e che magari hanno già 20 anni. Io ci dipingo sopra oggi, ma l'analisi che posso fare sul legno mi dà una datazione che è di 20 anni prima. E quindi devo sempre fare attenzione. Cioè l'analisi chimica non è sufficiente per datare una tavola. Ovvio che io controllo la tecnica, che io controllo la mano, che io controllo le influenze, eccetera, ma la datazione esatta, se non viene apposta, non ce l'ho. E fate attenzione anche alle datazioni apposte, soprattutto del Novecento, perché a volte per avere l'imprimatur sul poter dire sono stato il primo a fare questa cosa, ha indotto gli artisti, Kandinsky in testa, a imbrogliare sulle datazioni, ad anticipare le date di alcune opere. Per cui sulle date dobbiamo fare molta attenzione. Se poi le date non sono nemmeno scritte dall'artista e siamo prima del Novecento, ancora di più. Se la data è apposta nel 1400 è una data credibile, se la data è apposta sul primo acquerello astratto da Vasily Kandinsky nel 1920 e l'ho data 1910, così come sicuramente è andata, devo fare attenzione. D'accordo? Credete alla profondità delle rughe che ho. Bisogna fare attenzione a queste cose, perché a volte per avere appunto l'imprimatur dell'essere stati primi sono stati indotti anche un pochino ad imbrogliare. E in alcuni periodi storici 7 anni fanno notevolmente la differenza. Questo per dirvi che la maggior parte delle tavole di Bosch che abbiamo non sono datate. E quindi le datazioni sono delle attribuzioni sulle quali si è cambiata idea nel corso appunto del miglioramento tecnologico, e ciò nonostante il dubbio deve restarci. Chi è quest'uomo? È sicuramente Hieronymus Bosch, figlio di artisti. Sappiamo che il termine, il nome Bosch, sicuramente deriva dalla collocazione geografica, non è il suo cognome. È un po' come Leonardo da Vinci, vero? Da Vinci non è un cognome, era nato a Vinci e quindi arrivava da Vinci. Bosch probabilmente ha la stessa radice, ha la stessa origine, perché noi sappiamo che molto probabilmente è nato in un paese chiamato Herzogenbosch, con l'H davanti. Non impazzite su questi nomi, li troverete poi nei testi che avete già in bibliografia. È appunto, era un paesino nel cuore del Brabant. Il suo nome probabilmente era Hieroen, che in latino poi viene trascritto in Hieronymus, Geronimo, se volete chiamarlo all'italiana, che è terribile, però quello è. Antonis Zon, Van Aken, staccato Aken con la K, molto probabilmente è il cognome esatto. Molto probabilmente nasce nel 1453, ma non ne siamo così sicuri. 1453. E si presume nasca proprio in una famiglia di pittori. Dipinge una serie di tavole, di cui abbiamo rarissimi e preziosissimi disegni. E sarà, da chi verrà dopo di lui, spesso copiato. Parte delle tavole saranno copiate, dei dettagli verranno copiati, quindi dobbiamo fare molta attenzione anche nelle attribuzioni, nel riuscire a riconoscere l'originale da una copia contemporanea. E quindi capite che si fa fatica, perché anche il tipo di pigmento a volte è lo stesso, ma la mano è diversa. Per quello che sappiamo oggi, per cui con le nuove attribuzioni e le nuove datazioni, probabilmente l'opera più antica che abbiamo di lui, e quindi diciamo forse la prima opera tra quelle che sono state datate, che ci sono giunte, si intitola Sette peccati capitali e quattro novissimi, di cui parleremo però dopo Pasqua. E quattro? Novissimi. Lavora poi sicuramente ad una tavola il cui tema è la cura della follia. E secondo una nuova attribuzione del 97, anche la cura della follia farebbe parte di, non un trittico, ma di un quadrittico. Quattro tavole. E diciamo a questo primo periodo, che va dal 1475 circa al 1480 circa, secondo parte degli storici che l'hanno approfondito, apparterrebbero anche altre due tavole molto particolari, che sono una Le nozze di Cana e l'altra, che è veramente interessante, è Il prestigiatore. Secondo invece parte di alcuni critici e storici, Le nozze di Cana non sarebbero di Hieronymus Bosch. Ed è bellissimo leggere questi studi, perché ci dicono che non è di Bosch, ma non sanno dirci di chi sia. Non sanno avvicinarlo a nessun altro fiammingo. Il che significa, capite bene, che sarà una delle opere che affronteremo a lezione. Proprio perché è così non certa, è così interessante. Sappiamo che in questo periodo, intorno al 1478, si sposa. Io odio questo tipo di dettaglio sugli artisti, la vita privata è privata. Ma nel caso di Bosch ci interessa invece sapere che si sposa. Perché? Perché sposa la figlia di uno speziale, di un farmacista. Quindi fate attenzione, di un uomo di magia, Bianca. Chi cura è ancora un po' legato alle formule magiche. E lo speziale, o il farmacista per chiamarlo con un termine contemporaneo, quanto il pittore è custode di ricette che si tramandano segretamente. Per cui vediamo Bosch, colui che noi chiamiamo Bosch, che sposa la figlia di un uomo che probabilmente appartiene alla sua stessa corporazione, perché Speziali e Pittori erano legati allo stesso gruppo, alla stessa associazione, diremmo oggi, allo stesso ordine, ecco sarebbe il termine esatto, allo stesso albo, perché utilizzano in gran parte gli stessi materiali, gli uni per fare i colori, gli altri invece per fare le medicine, che non sono già sigillate, vero? Vengono fatte al momento e preparate, come si faceva e come alcuni farmacisti molto bravi ancora oggi sanno fare. Per cui è come se alla sua preparazione artistica si aggiungesse, se volete, in parte anche quella scientifica, perché tra l'altro con questa famiglia avrà un legame strettissimo per tutta la vita. Per cui non solo con la moglie, ma anche e soprattutto con la famiglia della moglie, che, e questo lo capiamo dagli atti notarili, lo stimerà moltissimo e gli affiderà anche tutta una serie di responsabilità importanti sul patrimonio di famiglia. Questa donna è ricchissima e per chi tra voi voglia fare l'artista sappiate che è una garanzia di poter fare gli artisti. Bosch in questo modo diciamo che potrà effettivamente scegliersi la committenza, cioè non dovrà più lavorare per vivere, gli cambia completamente la situazione. Deve essere stato un matrimonio molto felice, proprio perché la famiglia gli affida tutta una serie di responsabilità e lui dimostra di essere bravissimo nella gestione del patrimonio della famiglia di lei. Bravissimo. È una di quelle rare situazioni in cui vediamo un artista in questo periodo storico morire ricco, morire assolutamente benestante, avendo triplicato il patrimonio iniziale. Sappiate che è rarissimo. Cos'altro accade in questo periodo? Dipinge molto probabilmente intorno al 1480, per cui dopo le nozze, due tavole particolari. Una è un Ecce Homo, Ecce Homo con l'H, vero? Davanti a Homo. È una sorta di volto della Sindone, che essendo a Torino dovrebbe essere nota a tutti. E l'altra è una crocifissione. Noi capiamo dalle opere, più o meno da questo periodo in avanti, un profondissimo rigore etico e morale da parte di questo artista. Un artista che andrà, vedrete, da questo periodo in avanti a realizzare opere, di cui vedremo adesso i titoli principali, ma sono tutte opere che hanno un monito morale, etico, didattico. Sembra che dipinga per far capire a chi vede i suoi lavori che l'accantonamento del denaro a fine di arricchimento personale a scapito del prossimo è peccato mortale, che l'imbroglio è peccato mortale e che l'uomo costantemente corre il rischio di essere, come voleva la tradizione gotica, trasformato in un grillo, trasformato in una mostruosità, ibridato, e che qualora uscisse dalla retta via, ciò che lo aspetta è l'inferno. E c'è da dire che l'inferno dantesco rispetto all'inferno di Hieronymus Bosch è una passeggiata, per cui l'inferno di Bosch è veramente un luogo di buio. Ricordatevi che siamo nel nord Europa e quindi anche la luce è vissuta come un dono divino, molto più che nel bacino del Mediterraneo, dove anzi a volte il sole ci dà fastidio, vero? Luogo di eterno buio, di incendi e devastazioni, di inganni, intrighi e di mostruosità. Guardate che forse è il peggior inferno che la storia dell'arte abbia mai conosciuto, al punto che anche Freud si preoccuperà di andare a studiarlo e ad analizzarlo, e non solo Freud. Anche la psicanalisi a seguire, quando parlerà di allucinazioni, di angosce profonde, di baratri interiori, farà spesso riferimento ai mostri di Bosch, per cui sono, diciamo, delle situazioni da incubo che nemmeno il surrealismo nel Novecento riuscirà ad eguagliare. Per cui parleremo spesso di inferno e di paradiso, rassegnatevi. Qual è l'altra sua peculiarità che è presente in quasi tutte le tavole dal 480 in poi, o perlomeno da quelle che pensiamo essere dal 480 in poi? Il fatto che le fonti letterarie alle quali lui faccia riferimento siano, da una parte, le sacre scritture in lingua tedesca, la Bibbia tedesca. E quindi, pur essendo lui nato nell'area cattolica delle Fiandre, faccia riferimento alle sacre scritture protestanti. E quindi qui dobbiamo stare attenti, perché alcune traduzioni dal latino, dal greco al tedesco sono ben diverse da quelle della Bibbia canonica che oggi noi possiamo avere in mano. Quindi per capirlo molte volte dobbiamo proprio andare a trovarci delle traduzioni della Bibbia tedesca della seconda metà del 1400. Non vi preoccupate, l'ho già fatto io, non serve che lo facciate voi, vedo degli sguardi preoccupatissimi. Dall'altra dobbiamo andare a cercare proprio le tradizioni locali, le leggende popolari, i modi di dire, oggi caduti in parte in disuso. Terzo elemento vitale per le sue fonti letterarie sarà il tener conto che, come molti pittori fiamminghi, io oserei anche dire tutti i pittori fiamminghi, fece parte di una congregazione, di una comunità, qualcuno dice di una setta. Io preferirei chiamarla loggia più che setta. Era tipico appartenere ad un gruppo che poteva occuparsi sia del lavoro sia della parte spirituale. Guardate che anche Van Eyck faceva parte di una di queste, chiamiamole associazioni, ma non è sufficiente chiamarla associazione, sarebbe proprio una gilda. Voi direte sì, soltanto quanto prima. Cioè è una congregazione, per capirci, è qualche cosa che assomiglia in modo parziale al Lions Club, al Rotary. Cioè sono delle associazioni che si occupano di tante cose e alle quali appartengono persone che fanno lavori diversi, ma che in determinate situazioni, poiché si conoscono e fanno parte dello stesso circolo, dello stesso gruppo, si aiutano, collaborano tra di loro, costruiscono eventi, fanno beneficenza, fanno donazioni. I gruppi ai quali questi artisti appartenevano erano molto simili. Inserite dentro a questo anche l'elemento religioso, però, perché a seconda del gruppo c'era anche un taglio particolare all'interno del mondo religioso. Ricordatevi che siamo in un mondo dove, vero, le polarità sono multiple, per cui essere protestanti o essere cattolici faceva moltissima differenza. Appartenere ad una gilda, per cui ad un gruppo, ad un altro, significava anche avere un determinato pensiero teologico rispetto ad un altro. E in più metteteci anche che alcuni elementi, proprio perché questo piaceva, erano tenuti segreti al resto della società. Li conoscevano solo coloro che erano legati a quel gruppo. Alcuni simboli o alcuni termini erano chiari solo a coloro che facevano parte di quel gruppo, non a tutti universalmente. E capite che lì sì ci si complicano le cose. Perché o abbiamo capito, o c'è stato scritto e tramandato, o andiamo per ipotesi, per poterle leggere in modo chiaro. Sappiamo per certo che lui appartenne ad una confraternita particolarissima, che gli commissionò molte opere, il cui simbolo fu il cigno. Ecco che la bandiera con il cigno spesso comparirà all'interno di queste opere. E sappiamo che a livello etico questa congregazione, questa associazione era fortemente legata ad un pensiero adamitico. Di cui parliamo quando ho finito di farvi tutta la carrellata delle opere principali, così teniamo prima la biografia, diciamo, e poi entriamo proprio nel dettaglio dei vari argomenti. Scusi? La massoneria è una delle tante lobby, diciamo così, che soprattutto dalla seconda metà del 1600 in poi prenderà piede. È una di quelle presenti, diciamo. Per cui, tra l'altro, fino ad un certo punto la massoneria non era una cosa così segreta come ce la fanno pensare oggi. Significava appunto fare parte a Rotary, essere nella massoneria e avere dei circuiti particolari. Io penso a Mozart, per esempio, no? Una serie di viaggi e di concerti in giro per l'Europa, se non fosse stato attraverso il padre legato alla società massonica, non avrebbe certo potuto farli. Anzi, venne invitato proprio perché ad ospitarli era sempre un affiliato alla massoneria e non era cosa disdicevole, anzi era un motivo elitario. La stessa cosa accade, diciamo, per le commesse di alcuni quadri, soprattutto a Van Eyck, oltre che a Bosch. Perché ricordatevi, appunto, Van Eyck lo farà anche per necessità, Hieronymus Bosch lo fa per scelta. Sono situazioni diverse, proprio perché a livello economico non ha necessità di essere legato ad un gruppo per lavorare. Appartiene ad un gruppo e di conseguenza per piacere lavora, non per necessità. Van Eyck invece lo fa per necessità, cioè quello è il suo pane. Ma volevo fare una domanda legata al differenziale, sempre tra l'arte, ma poi come è diventata, come è avvenuta la separazione tra medicina e pittura? Beh, ovviamente la grande separazione tra medicina e pittura l'abbiamo nel 1700, con il pensiero illuminista, certo. E in modo radicale l'avremmo con l'avvento, tra l'altro, dei colori sintetici, là dove all'inizio del Novecento si iniziano ad avere dei prodotti realizzati a livello di fabbrica e quindi non è più il pittore che crea da solo i propri colori, ma li può acquistare. Inizi già del 1800, seconda metà dell'Ottocento abbiamo già questo tipo di produzione. Andando avanti nella cronologia delle opere, in questo periodo, siamo intorno sempre al 1480, noi abbiamo, diciamo nell'arco di tempo che va dal 1480 al 1500, per cui in quei 20 anni, La nave dei folli, di cui parliamo proprio oggi, La morte dell'avaro, che vediamo oggi, e La salita al Calvario. Non so se vi rendete conto, ma fin dall'inizio stiamo parlando di titoli multipli, mescolati, cioè abbiamo sia una produzione laica, sia una produzione religiosa. A volte dobbiamo fare attenzione perché il titolo laico nasconde un tema religioso. Cosa se ci pensate che non abbiamo visto in Van Eyck o in Campin? Noi abbiamo visto anche nelle sacre rappresentazioni sempre soggetti sacri ambientati in ambienti familiari, domestici, la casa, il palazzo. Bosch questo non ce lo regalerà, la maggior parte dei suoi soggetti, vedrete, si troverà all'aperto. E l'ambientazione sarà quasi sempre un'ambientazione di rovina, di maceria, di disfacimento, quasi sempre. Tra il 1500 e il 1502 molto probabilmente realizza uno dei trittici più famosi in assoluto, di cui parleremo, che è il Trittico del Fieno. E tra il 1500 e il 1504 realizza una serie di trittici. Il Trittico di Santa Liberata. Questo fino a? Tra il 1500 e il 1504. Per cui il Trittico di Santa Liberata, il Trittico del Diluvio, e per diluvio intendo il diluvio universale, un altro trittico o quadrittico di proprietà dell'Accademia di Venezia, delle gallerie dell'Accademia, che sono le visioni dell'aldilà. Visioni dell'aldilà, di cui parleremo. E probabilmente tra il 503 e il 504 lavora al Trittico delle Delizie, di cui parleremo, lavora a San Giovanni di Patmos, alla Meditazione di San Cristoforo, e alla Storia della Passione. Del 1505 invece è il Trittico degli Eremiti. E probabilmente tra il 1505 e il 1506 realizza un altro trittico straordinario, che è il Trittico delle Tentazioni. Databile tra il 1505 e il 1507, è un'altra salita al Calvario. Dopo, sicuramente dopo il 1504, invece, è il Trittico del Giudizio Finale. databile invece tra il 1502 e il 1508, mi dispiace tanto di questo elenco della spesa, tra il 1502 e il 1508 invece è l'Incoronazione di Spine. Anche quest'opera discussa tra gli storici, non tutti sono concordi sul fatto che sia di Bosch. E dell'ultimo periodo della sua vita, per cui diciamo dal 1510, sono tre grandi lavori, che sono Le Tentazioni di Sant'Antonio, Il Figliol Prodigo e Il Trittico dell'Epifania. Questo in linea di massima, perché vi ripeto, non tutti sono concordi su queste datazioni. Cinque biografie che andate a prendere, a meno che l'una non copi dall'altra, dovreste avere cinque tipi di datazioni diverse sui suoi lavori, proprio perché non sono datate direttamente da lui. E quindi, diciamo, la cosa ci dà difficoltà. Noi non seguiremo l'ordine cronologico, ve lo dico subito, per una serie di motivi. Primo, di solito è noiosissimo seguire gli ordini cronologici. Secondo, se il nostro lavoro è di comparazione con l'arte rinascimentale, non ha senso farci tutto Bosch. Preferisco fare meno lavori suoi ma compararli con i suoi contemporanei che non invece andare a vedere esattamente tutto quello che ha fatto. Sappiamo sicuramente, anche qui non abbiamo certezze, che muore intorno al 1516. Perché noi abbiamo datato 9 agosto negli archivi parrocchiali un evento speciale, un funerale straordinario in onore di un pittore, molto probabilmente era lui. Perché? Perché dopo questa data tutti gli atti notarili della famiglia, della moglie, sono gestiti da altri e quello che sappiamo essere stato il suo patrimonio di famiglia è gestito dai fratelli, non da lui. Per cui non è improbabile che appunto quella data e quella nota, diciamo, che ci rimane nell'archivio parrocchiale sia proprio riferito al suo funerale. Ma vi ripeto, niente è così sicuro, niente è completamente certo, se non pochi pochi elementi. Con chi studia? Probabilmente studia con il padre, a bottega di famiglia. Lavora sostanzialmente in quell'area geografica e qualcuno ipotizza un suo viaggio a Venezia. Questo andrebbe a motivare quel piccolo nucleo di opere presenti a Venezia sue, di cui pensate noi abbiamo archiviazione storica, per cui vengono archiviate, annotate nelle gallerie dell'Accademia in modo particolare già nella prima metà del 1700, per cui siamo proprio sicuri che sono dell'epoca, diciamo così, perché tra l'altro nella catalogazione di primi 900 di primi 700 c'è proprio scritto che sono opere di proprietà già da lungo tempo. Penso sia quasi inutile dirvi che poi Napoleone Bonaparte se le portò via. Il Trittico dell'Aldilà, che forse era un quadrittico, viaggiò verso Parigi come molte altre opere. lo sapete, no? Napoleone Bonaparte, così come poi farà Hitler, si sposterà con gli storici dell'arte e l'elenco della spesa di che cosa portarsi via. Quando conquistano determinate città, arrivano, dopo l'attacco bellico, proprio con gli storici dell'arte e l'elenco delle opere d'arte da portare via. In modo così scientifico lavorarono in due, Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler. Non furono i soli a portare via opere d'arte, ma nessuno quanto loro lo fece in modo scientifico. E ricordatevi che la maggior parte delle opere che riuscimmo a riavere dopo le campagne napoleoniche con il congresso di Vienna tornarono in Italia grazie a Canova, che era, pensate un po', ambasciatore alla corte di Francia. E grazie al suo intervento e alla sua straordinaria astuzia, molte volte dicendo che erano opere di bassissimo valore, riuscimmo a riportarci a casa un terzo di quello che c'era stato rubato. Un terzo. Ma questa è la storia delle guerre legate alla storia dell'arte. Tra quelle opere che tornarono a casa abbiamo anche le opere di Bosch che ancora oggi possiamo meravigliosamente vedere a Venezia. Da che cosa partiamo? Beh, in linea con quello che ci siamo detti la settimana scorsa, legato all'idea dell'uovo e legato all'idea della conchiglia, partiamo dalla nave dei folli e dalla cura della follia. Assolutamente no. Ah certo. Perché? Perché siamo in un periodo storico particolare, vero? Mondo politico, fame, guerre territoriali, guerre religiose indurranno alcuni intellettuali ad affrontare il tema della follia, non solo a livello letterario, ma anche a livello filosofico. Erasmo da Rotterdam scriverà un suo elogio della follia molto probabilmente in seguito a un paio di testi redatti a fine 400. L'elogio della follia è proprio dei primi 15 anni, se non ricordo male, sapete, ma andate a verificarlo, dovrebbe essere del 1515. Diciamo nei primi anni del 1500. I testi invece che ispireranno anche Hieronymus Bosch sono di fine 400. Uno di questi, nel caso vi interessasse, tra l'altro è stato di recente tradotto e stampato in copia anastatica anche in lingua italiana e io l'ho portato, ed è un testo di cui parliamo oggi proprio, di Sebastian Brandt, e si intitola La nave dei folli, per cui non è un titolo inventato da Hieronymus Bosch. Bosch in un certo senso fa un omaggio ad un testo che venne stampato, è uno dei primi testi stampati. Ricordatevi che l'Olanda sarà la grande antagonista di Venezia per le edizioni a stampa. La stampa nasce nell'ultimo trentennio del 1400, vero? Uno dei primi testi a stampa non è la Bibbia di Gutenberg, quella è una delle migliori edizioni a stampa, che è del 1490, secondo alcuni anche 1492, dipende sempre dalla lezione che andiamo a vedere. Uno dei primi testi a stampa fu Petrarca e subito dopo Boccaccio, e siamo nel 1470. E siamo a Fabriano, non a Venezia, non in Germania. Lì partirà, diciamo, tutta la storia della stampa, che avrà il suo massimo esponente come area geografica nell'area veneziana. Per cui i più grandi stampatori, soprattutto Aldo Manunzio, lavoreranno a Venezia. Grande città commerciale, grande capacità commerciale e uomini di grande gusto. Chi inizia a lavorare alla stampa sicuramente è un artista, è un incisore per forza. E Venezia vanta una serie di grandi maestri, ai quali anche Dürer, che è esattamente di questo periodo, non dimentichiamolo, guarderà. Non a caso Dürer più volte scenderà a Venezia per affinare le tecniche di incisione, di stampa. Gli olandesi sono straordinari copiatori in questo e ben presto, soprattutto a causa della scoperta dell'America e dei traffici verso le nuove Indie, l'asse commerciale abbandonerà il Mediterraneo e si sposterà verso verso ovest. Ecco che i porti olandesi avranno una spinta eccezionale verso i commerci oltre oceano. Venezia perderà sempre più punti a causa dei grandi porti olandesi, Anversa, Amsterdam. Saranno il grande colpo al cuore della grandiosità, della ricchezza veneziana. La stampa sarà uno dei motivi di grande conflitto, anche se la stampa veneziana manterrà assolutamente il primato nella qualità, nella precisione, nella perfezione, nell'eleganza. Aldo Manunzio, agli inizi del 1500, pensate un po', si inventa le edizioni tascabili, le famose edizioni aldine, oggi assolutamente non calcolabili per valore commerciale, che faranno scuola praticamente a tutte le scuole di stamperia, olandesi prima e portoghesi poi, perché guardate che anche il Portogallo avrà poi un centro fantastico per la stamperia. Perché l'Olanda avrà questo grande impulso? Perché Venezia e non Fabriano, che di fatto è l'area dove nasce effettivamente la stampa? Perché? Perché a Fabriano nascono le carterie, le cartiere, le prime fabbriche in cui si costruisce carta. Guardate che fino a quel momento si è sempre lavorato su pergamena, per cui su pelli animali, non su materiale fibroso. Fabriano inventerà un nuovo materiale fatto grazie agli stracci. La prima carta è fantastica perché è di stoffa, è carta di straccio, non è pura cellulosa di legno. La qualità è assolutamente non paragonabile ancora oggi. Perché Venezia, quanto l'Olanda, quanto Amsterdam, sono città democratiche. Sono città dove alcuni testi possono essere stampati. Fabriano è in area papale, vero? Capite che c'è una censura severissima sul controllo di ciò che viene stampato e divulgato. Ecco che immediatamente Venezia, repubblica laica, ha il primato. Non a caso anche Galileo Galilei, quando dovrà stampare i propri testi scientifici, sceglierà Venezia, non altre città. In altre città l'avrebbero arso prima ancora di stampare. A Venezia stampa. Anche se il doge non è poi così a favore di Galileo in quel periodo, e di conseguenza alcuni suoi testi, quando poi anche il Papa interverrà minacciandolo di accusarlo appunto d'eresia nei confronti del sistema solare, chi ruota intorno a chi, i suoi migliori allievi porteranno i libri stampati a Venezia in Olanda, non a caso, o in Svizzera, non a caso, cioè in territori dove il pensiero laico aveva maggiore possibilità di esistere, maggiore possibilità di esserci. Tutto questo discorso per dirvi che appunto intorno al 1470 ad Amsterdam viene dato alle stampe un testo desueto, un testo laico che non conosceva precedenti, intitolato appunto, ve lo dico nella traduzione italiana, La nave dei folli, scritto da Sebastian Brandt, appunto, e molto probabilmente legato a dei festeggiamenti carnevaleschi, carnascialeschi. Verrà stampato più volte e sappiamo che l'edizione a stampa di Basilea, perché appunto piacerà talmente tanto che poi verrà anche preso da altri stampatori e ristampato, o non c'era, perlomeno non in questo territorio, non c'era il diritto di stampa. Un libro si poteva prendere e stampare senza dover pagare i diritti a nessuno. Oggi andate in galera se lo fate. All'epoca chi arrivava prima stampava o ristampava. Questo era motivo di elogio, di prestigio, non un danno economico, anzi. Pensate un po', l'edizione di Basilea, che è del 1494, porta le illustrazioni di Dürer. Sarà proprio Dürer a realizzare le illustrazioni. E sono vitali nella nave dei folli. Perché? Perché noi abbiamo una storiella, diciamo così, brevissima, che occupa massimo 2-3 paginette, è inutile dirvi, vero? È tutto in rima, è poesia, e la relativa illustrazione. Sono tutte xilografie o litografie. Vi ripeto, ogni storiella ha la sua immagine, per cui è fortemente illustrato. Inutile dirvi che è in bianco e nero, vero? Siamo di fronte a uno dei primi testi laici stampati, che non sia di letteratura alta, che non sia Petrarca, che non sia Boccaccio, che non sia Dante. Vi sto dando proprio l'ordine di stampa: prima Petrarca, poi Boccaccio, per ultimo Dante, nell'arco di 2 anni comunque, 1470-1472, e successivamente la Bibbia di Gutenberg, 1492, 90-92 dipende appunto dalla lezione, e qui siamo esattamente in quel periodo. Considerate che quella di Basilea è una ristampa, 1494, visto il successo che già aveva avuto in Olanda. Assolutamente stampato con caratteri mobili. Cosa vuol dire? Che ogni lettera è un timbro, per capirci. E c'è una persona, il tipografo, che su una stecca, su una linea, mette in fila tutti i timbrini per comporre le parole. Un lavoro pazzesco, vero? Calcolate di costruire una pagina di massimo 90 righe, e già era una cosa strepitosa, dove ogni parola è costituita da un numero di timbri uguale al numero di lettere. Lo spazio è a sua volta un timbro, per cui è una tessera. Erano in legno le prime, venivano posate, speculari, per cui pensate un po', costruite la parola per intero, poi la girate, la mettete sulla stecca sapendo che l'inizio della riga è la vostra fine, posati, inchiostrati, e poi si posava il foglio di carta e si pressava. Nasce così la stampa, cioè un lavoro pazzesco. Solo un artista legato all'incisione poteva fare una cosa come questa. Nel tempo diventeranno di metallo e nel tempo si arriverà, e questo saranno sempre gli italiani a inventarlo, a costruire delle parole intere, avendo però dei problemi sulle misure e sui caratteri. Ogni stamperia ha un suo tipo di carattere, per forza è intagliato a mano sul timbro di legno, sullo zoccoletto di legno. A seconda della stamperia noi oggi sappiamo legare a libro, editore, e quindi editore periodo e a periodo città. Già vi accennavo al fatto che Venezia custodisce miracolosamente la maggior parte di ciò che ha stampato. Perché? Perché la Repubblica controllava tutto quello che andava stampato e imponeva il deposito, vi dicevo, di due copie di ogni testo stampato a Venezia presso le cancellerie dei dogi. Quei depositi hanno dato vita all'attuale Biblioteca Marciana di Venezia, per cui abbiamo solo in Marciana un patrimonio inestimabile a livello storico sulla storia della stampa, oltre ai contenuti. Sebastian Brandt si incunea in questa storia strepitosa e lo fa con un testo, vi dicevo, demenziale, perché sono tutti micro racconti legati a scene carnevalesche, di situazioni bizzarre che possiamo incontrare nel carnevale o legate alla follia umana. Due parole su che cosa sia il carnevale, vero? Se no non ci capiamo e non capiamo Bosch. Il carnevale era un periodo dell'anno profondamente atteso perché era, soprattutto l'ultima settimana di carnevale, la settimana in cui si potevano rovesciare le situazioni. Era una sorta di settimana franca. Non si poteva essere condannati per quello che si combinava nella settimana di carnevale. Abbiamo una serie di feste a tema all'interno anche del mondo ecclesiastico. E per feste intendo appuntamenti. Una di queste era una festa legata ad un tipo di messi. Non era grano, era un seme più povero di cui ora mi sfugge. Le segale, eccoci, alle segale. E pensate un po', all'interno del monastero l'abate o colui che si occupava dell'istruzione, per capirci il direttore, se vogliamo dare un termine a noi comune, veniva fatto sedere su un asino al contrario, doveva cavalcare a rovescio, lo facevano girare all'interno del chiostro e gli studenti potevano dirgli tutto quello che non avevano avuto il coraggio di dirgli durante l'anno. Capite però che poi la settimana finiva comunque, vero? E che probabilmente questo direttore o questa abate non era demente e quindi ricordava. Ma in quella settimana anche i monaci potevano scatenarsi. Gli uomini potevano travestirsi da donne, le donne potevano travestirsi da uomo e non era peccato. Ci si poteva mascherare, cosa vietata in tutta Europa tranne che a Venezia. La maschera serve per essere quello che non si è. La maschera serve per non farsi riconoscere. È l'antenata dei passamontagna dei rapinatori, vero? E quindi si potevano fare avance galanti a delle donne che nell'ufficialità non si sarebbero mai avvicinate, perché magari sposate. A carnevale era permesso. E c'erano tutta una serie di sfilate legate a tutta una serie di situazioni, lo charivari per esempio, charivari di cui a volte nei corsi abbiamo parlato, che è un momento in cui si fa un gran chiasso, si usano i coperchi delle pentole, i tegami, i mestoli per fare un gran rumore, legato ad una novella che nasce sul finire del 1200, inizi del 1300, che vedeva re di un paese un cavallo che doveva prendere moglie e voleva una donna bellissima. Vede tutta una serie di ragazze e alla fine ne sceglie una, ma caspita, è una ragazza bellissima che va sposa ad un cavallo, secondo alcuni codici ad un asino, secondo altri. E questa poveretta non ha nessuna voglia di avere rapporti sessuali con un cavallo, lei non lo vuole per marito, anche se è un cavallo re, sei il re, e si sa parlare questo cavallo. Allora gli amici di lei, per evitare che le nozze vengano consumate, fanno una gran cacciara sotto le finestre della camera da letto, percuotendo qualsiasi cosa, barattoli, pentole, cantando delle oscenità pazzesche, prendendo in giro questo cavallo, cioè facendo di tutto per disturbarli. Questo sarà uno dei punti di partenza per le sfilate di carnevale, per esempio, una delle tante. Nella tradizione, e guardate che questa forse è una tradizione che ci arriva dalla Grecia minoica, è quella di far sfilare dei personaggi su delle barche, che di fatto sono dei carri. Perché cito la Grecia minoica? Perché su una nave carro si spostò Dioniso, per esempio, e il viaggio di Dioniso con Arianna fu su una nave barca, scusate, su una nave carro, una nave barca per forza, con le ruote, che poteva andare per mare e per terra. Per cui alcuni di questi elementi veramente si perdono e si pescano nella notte dei tempi. Cosa c'entrano con tutto il discorso che ci siamo fatti la settimana scorsa? C'entrano tantissimo, perché tutta la fine del 1400, gli inizi del 500, che vedrà la nascita delle signorie, andrà a ripescare dal carnasciale, dal carnevale, dalle antiche mitologie classiche, da ciò che si poteva vedere in quello che era rimasto negli affreschi, nei bassorilievi, nelle pitture realizzate su vaso, una serie di usanze di cui magari non conosceva il vero significato e le inserì nella festa rinascimentale. Ecco per esempio la conchiglia barca, ecco per esempio i carri che vengono utilizzati per le grandi magie, gli automi, si spostano su carri, su ruote. Firenze in questo sarà maestra a tutto il mondo dell'epoca. Ecco che la nave dei folli, in moltissime raffigurazioni che ci vengono date in Sebastian Brandt, è una barca che di fatto è un carro. È una nave che non naviga per mare, ma è una nave che solitamente si sposta su ruote e viene fatta sfilare dentro il carnevale. Chi abita la nave dei folli? I folli. E chi sono i folli? Coloro che possono dire quello che pensano. Non sono i malati di mente. Sono coloro che, non avendo completamente il nume della ragione, sono poco cauti e dicono tutto quello che pensano. Sono dei fluaches, cioè sono dei personaggi che non hanno misura, che non hanno ritegno. Sono due storicamente le figure che possono fare questo a carnevale e fuori dal carnevale. E sono due figure anche tra loro molte volte sovrapposte. Sono il giullare di corte e sono il nano di corte. Nano che sapete a fine 400 viene proprio reclutato a corte come se fosse un giocattolo, come se fosse un motivo di vanto, un pezzo da collezione, un nano dentro la corte. A volte tra famiglie aristocratiche anche si scambiano i nani, se li regalano a vicenda, come se fossero degli oggetti. C'è anche un dipinto quello agli Uffizi. Abbiamo tutta una serie di dipinti agli Uffizi, nelle stanze vaticane, che abbiamo proprio, soprattutto i Carracci ci lasciano testimonianza di questi nani, a volte anche deformi, a volte con delle problematiche endocrine, quindi anche con, non so, moltissimo pelo o completamente calvi o con una serie di deformazioni oltre al fatto di essere affetti da nanismo. E questi folli, questi giullari, questi nani viaggiano dentro la stessa nave. E qui abbiamo tutta una serie di leggende legate a questa nave dei folli, lasciata andare alla deriva perché offendevano le varie famiglie importanti della città, per cui presi tutti i giullari o tutti i folli della città, messi su una barca e lasciati andare alla deriva. Ma questo diventa un po' uno, vi ripeto, dei carri allegorici legati al carnevale. E quindi questa nave dei folli è una nave carro, è una nave finta, da parata, legata al divertimento, legata alla goliardia. La nave dei folli, in alcune rappresentazioni dell'epoca, poteva anche essere qualche cosa d'altro. Ora vediamo cosa. Abbiamo, vi ripeto, varie xilografie o litografie realizzate su questa nave. Ovviamente quando ci viene data a stampa, ci viene data in acqua. Noi sappiamo che invece durante queste feste era su ruote e si spostava per le vie della città. O per capirci, si spostava per le vie della città tanto quanto oggi accade a Viareggio o tanto quanto accade nelle città famose per il carnevale. E lo schema, e questo è particolare, è lo schema negli spostamenti che veniva utilizzato durante la Settimana Santa per la Via Crucis. Cioè era un itinerario particolare all'interno della città. Ovviamente, vero, cambia il periodo e cambia il soggetto, ma il modo di gestire queste sfilate era identico al modo di gestire una Via Crucis, con delle tappe, con delle soste e con dei micro spettacoli profondamente legati, se ci pensate, a livello teatrale, alla commedia dell'arte, non a caso veneziana. Dove si può dire ciò che non si può dire nel teatro colto? Dove il povero è più furbo del ricco? Dove il servo è più intelligente del padrone? Anche questo entrerà nel carnasciale. Anche questo farà parte di questi giochi legati a quella settimana in cui si possono ribaltare le situazioni. Ricordatevi che la commedia dell'arte nasce esattamente nel periodo storico in cui ci stiamo muovendo con questo corso. Per cui sono tanti micro elementi che dobbiamo tenere cuciti insieme, se no non riusciamo a capire. Quella che avete di fronte è una delle tante xilografie all'interno appunto della raccolta di Basilea. Cosa ci dà? Se notate, ci dà una barca stracolma di giullari con una bandiera, con un vessillo che ci dà la testa di giullare. Solo su questa immagine noi potremmo fare un corso intero, ma voi tanto mi odierete lo stesso alla fine di questo corso, ne basta uno. Perché? Perché dovremmo proprio vedere chi sia il giullare, da che cosa sia nato. Il giullare molto probabilmente nasce da una maschera importata a Sparta, che è appunto il fluaches, il fluax. La cosa che mi piace, sempre pensando a questa maschera, è che, chissà per quale motivo, per lungo tempo il fluax vestirà come i re magi, esattamente nello stesso modo. Fluax, che significa eccedere, non avere filtri, non avere ritegno, traboccare, straripare. È ciò che non si può fermare. Voi immaginatevi una pentola che bolla ad alta temperatura, piena d'acqua, con tutte queste bolle che vi buttano fuori l'acqua. Questo è fluax. Ma è anche un chiacchierone che non riesce mai a star zitto. Sono io a lezione. Non tace mai. Il fluax poi contemporaneamente è anche colui che non è mai sazio, che mangerebbe in continuazione. Arlecchino. Arlecchino è tutte e due le cose, se ci pensate, no? È costantemente affamato e non tace un attimo. Nella commedia latina, questo Fluax è una figura tipica, tipicizzata. Pancia enorme, sedere gigantesco perché continua a mangiare, dice oscenità, continua a fare allusioni erotiche, sessualmente spesso è ambiguo e come costume ha una tunica cortissima che lascia scoperte le parti genitali. Sono sempre maschi a ricoprire questi ruoli e sovente indossano un fallo posticcio, un fallo imbottito. Ah certo, Pompei ce ne lascia traccia, tra l'altro, e anche il vasellame ce ne lascia traccia. Guardate che questo è un personaggio che poi indossa anche delle babbucce a punta. Sono elementi che poi resteranno nel giullare. Il fatto di avere una pancia grossa, di solito avevano queste casacche con la cintura e tenevano la parte davanti imborsata, diremmo, e queste scarpe proprio allungate, e il cappello, che è un cappello fliacico, cioè un cappello che arriva dalla Frigia, un cappello rosso, che sarà il cappello dei re magi per tutto l'Alto Medioevo, piegato in avanti. Guardate, è un tipo di cappello che, se noi andiamo a vederci anche i basso rilievi o gli alto rilievi a Persepoli, vediamo nel seguito del sovrano, per cui è proprio un cappello che nasce in quell'area geografica. Molto probabilmente questa maschera fliacica è una delle pochissime che si salva con l'avvento del cristianesimo. Esce dal teatro di piazza, perché i Fluax raramente si esibivano in teatro, se non nella tarda romanità, quando ormai il teatro era assolutamente degenerato, dissoluto, legato profondamente alla prostituzione, ed entrano a palazzo, entrano a castello, vengono banditi dalla chiesa, vero? C'è una scomunica sugli attori, ma molto probabilmente il Fluax si salva perché diverte, perché intrattiene, perché è un po' matto, non si rende neanche conto delle scemenze che dice, tanto è inserito nel suo personaggio, tanto è suo personaggio. E probabilmente è così che nasce la figura del giullare, che poi nel tempo, intorno al 1200, andrà a sovrapporsi anche al trovatore, nel senso che sarà anche una figura che saprà intrattenere la corte con il canto e con la poesia. Trovatore, trovatori e trovieri. Vi dice niente questo termine? L'amor cortese, la chanson, fine 1200, inizi 1300. Verranno regalati, donati, potranno spostarsi da una corte all'altra per intrattenere, per divertire, ma non sono scemi. Sono uomini di grande cultura, molto raffinata a volte, ma che per mestiere devono far ridere e di conseguenza dicono scemenze. In area italica andranno a sovrapporsi anche con la figura dell'acrobata, anche questo preso dal teatro antico, quello etrusco. Ecco che giullare avrà nella sua parola tutto quello che vi ho detto fino adesso. Perché? Perché a seconda di dove ci troveremo si chiamerà anche jongleur, jocularis in latino, giullare poi in italiano. Quel verbo sarà simile al termine tocar in spagnolo, che significa, pensate un po', giocare, intrattenere, ma significa anche suonare. Play in inglese, se ci pensate, no, significa sia suonare che giocare, ma significa anche intrattenere. Per cui play significa che io gioco, ma significa anche che io faccio giocare. E iocularis, da cui poi giullare in lingua italiana, ha dentro anche la radice proprio della giocoleria, nel senso del intrattenere con i giochi di agilità, ma anche con il lancio delle palle, di quello che poi saranno i birilli. È la matrice dell'arte circense, poi, vero? Le acrobazie. Perché i giullari di Dürer, che poi troveremo anche in Bosch, hanno un cappello a due punte con i sonagli alle estremità? I sonagli alle estremità probabilmente sono quello che resta dello charivari, del fare confusione, del far rumore, e appartiene anche al fluax, a chi non ha ritegno, a chi non si ferma mai, al fatto di continuare a rumoreggiare. E molto probabilmente sono a due punte per una motivazione religiosa. Il cappello a due punte, tra l'altro titolo di un meraviglioso testo di un medievalista, il cappello a due punte, pensate un po', è legato agli ebrei. Intorno al 1400, e di questo abbiamo cronaca scritta, anzi abbiamo le leggi scritte, era un cappello che veniva imposto agli ebrei soprattutto nelle feste civiche e nelle feste religiose. Era a due punte perché doveva nascondere le corna da diavolo sulla testa di ogni ebreo. Aveva ucciso Cristo e quindi erano l'anticristo. L'anticristo è il diavolo. Nella mentalità del 1400, tardo gotica, il diavolo porta le corna. O ha orecchie a punta, derivanti proprio dal satiro, da Dioniso, e vanno coperte. Ovvio, vero che poveretti non avevano corna in testa, ma a livello simbolico dovevano nascondere le proprie corna e dovevano essere nei cortei immediatamente riconoscibili. Guardate che, ma questo gli viene imposto per legge. Ci sono proprio delle leggi scritte, ma le troviamo già, pensate, in epoca arabo-normanna. Già nel 1200 ne troviamo nelle leggi scritte che impongono agli ebrei questi copricapi, e spesso sono gialli. Per pochi degli ebrei avrò letto delle cose, che dei testi, e mi sa che diciamo che gli ebrei, la maledizione che è capitata in tutta la fine del Novecento, è proprio perché è stato Gesù che prima di morire gli aveva maledetto. Bah. Nei testi storici questo non c'è, perlomeno non in quelli che io ho letto finora. Assolutamente. Quindi è una leggenda? Sì, ma capite che sono leggende che hanno pesato sulla vita di questa civiltà, chiamiamola proprio civiltà, in modo molto pesante. Nelle leggi tardo-medievali noi troviamo, vi dicevo tra l'altro anche in area arabo-normanna e quindi nel sud Italia, li troviamo già nel 1200, nella festa civica, che può essere la commemorazione dell'incoronazione, che può essere la nascita del futuro erede, del casato. Anche a distanza, sapete, nasce il figlio all'imperatore e si festeggia nelle varie città imperiali. Che può essere anche la morte di un sovrano, perché il funerale ha lo stesso tipo di festeggiamenti della nascita e anche dei matrimoni. Così come tutte le feste religiose, che so, la festa del santo patrono, la festa legata a dei santi locali, oltre a tutte quelle canoniche, Natale, Pasqua, Annunciazione, Ascensione e quant'altro, c'era proprio un protocollo che andava rispettato. A seconda del credo religioso al quale si apparteneva, per punizione si dovevano svolgere determinati ruoli. Ai musulmani spettava l'uso degli strumenti in metallo. Forse già ne abbiamo parlato di questi strumenti in metallo, no? I sonagli. Erano i fabbri solitamente, quindi loro dovevano suonare gli strumenti in metallo. Gli ebrei dovevano occuparsi di una cosa che ai miei occhi è terribile, che era la danza ridicolosa. Veniva proprio chiamata così nei vari testi antichi. Antichi nel senso di, appunto, medievali. La danza ridicolosa era una danza scomposta, disordinata, che doveva indurre al riso. E guardate che è drammatico. Perché? Perché gli ebrei dovevano in un certo senso fare i buffoni, dovevano fare delle danze disordinate che dovevano indurre al riso. Perché? Perché il riso, già dal 630 d.C., appartiene al diavolo. L'uomo saggio, e questo lo scrive direttamente San Benedetto, l'uomo saggio non ride mai, sorride soltanto. Perché la risata deforma il volto e Dio non ha creato volti deformi. Fa parte delle demenzialità del Medioevo. Ridere cambia i nostri tratti somatici, quindi appartiene al demonio. Tutto ciò che non è bello e perfetto non può averlo fatto Dio, l'ha fatto il diavolo. Loro, avendo, secondo la tradizione, assassinato Cristo, sono figli del diavolo, quindi appartengono al riso. Ecco probabilmente perché il giullare porta il cappello a due punte, con i sonagli all'estremità. È la somma di tutto questo, capite? La nave dei folli è piena di giullari. E il giullare storicamente è il riassunto di tutto questo e molto di più. Quindi dobbiamo fare grande attenzione quando in Bosch troviamo un giullare, perché ci dice anche di una matrice religiosa, anzi ci dice soprattutto di una matrice religiosa. 9 volte su 10 non è colui che intrattiene la corte, ma è colui che deve indossare i panni del buffone e quindi è quasi sempre un ebreo. Fate attenzione perché anche Michelangelo utilizzerà cappelli a due punte di colore verde o giallo per gli ebrei in Cappella Sistina. Quindi non è improbabile che la nave dei folli fosse piena di ebrei che dovevano per legge essere ridicolosi, far ridere. A carnevale potevano ridere tutti, perché è il momento in cui il mondo si rovescia, in cui le regole possono essere infrante. Ridere a carnevale è lecito, non è peccato, non ci si deve confessare. Capite quanta strada abbiamo fatto? E prima di proseguire, vi faccio vedere un'ultima cosa, poi pausa caffè, perché iniziate a essere in difficoltà. Abbiamo anche un tema musicale, che non è improbabile, fosse uno dei tanti canti carnascialeschi, uno dei tanti canti che potevano essere eseguiti nel periodo di carnevale. Per esperienza vi dico che solitamente i testi sono a dir poco ambigui, a dir poco, sempre a sfondo sessuale. sovente all'interno del testo di Sebastian Brandt troviamo anche dei riferimenti ad un altro testo che venne pubblicato più o meno nello stesso periodo. Venne stampato a Delft nel 1495, intitolato Le visioni, al plurale, di Tantalo, o di Tondalo, ma è sempre Tantalo in ogni caso. Testo che vi invito ad andare a cercare anche in internet e leggervi, così capite anche di tutta questa importanza di questi personaggi. Spesso queste illustrazioni ci fanno vedere persone che hanno testa d'animale e corpo d'uomo. Non fatevi ingannare. Questi, a differenza di quello che vedremo quasi sempre in Bosch, non sono grilli, non sono mostri di fantasia, sono persone in maschera. Maschera che non è la nostra maschera, ma che è una maschera ancora figlia della tradizione latina della maschera, dove la maschera di fatto è un casco, è un elmo che ci si mette in testa, cioè prende tutta la testa, è uno scafandro che ci si mette sulla testa, a forma di lepre, a forma di volpe, a forma di topo. Per cui per diventare un topo ci si infilava la maschera del topo, per diventare lepre ci si infilava la maschera legata alla lepre, ricoperta magari di pelle di lepre, con le orecchie vere della lepre. Coniglio e lepre saranno spesso legate al giullare perché hanno lunghe orecchie, due, esattamente come il cappello del giullare. E perché entrambe hanno un profondo sfondo erotico, sessuale. Troveremo anche, legato a questo frangente, la bocca dell'inferno, che è una bocca antica che si perde nella notte dei tempi. Questa parte, nel momento carnascialesco, spettava quasi sempre ai poveri musulmani. Perché? Perché dentro a questa enorme bocca, che era di fatto una macchina teatrale, che veniva costruita anche all'interno delle chiese per le sacre rappresentazioni, un'enorme bocca con denti di cinghiale, solitamente era una bocca di lupo, veniva fatta bollire un'enorme pentola, un calderone con la pece, in modo che ci fosse l'odore dell'inferno, c'era fuoco vivo, e i diavoli, travestiti ovviamente, erano attori o monaci o allievi dei monasteri, travestiti da diavolo, con dei forconi, spingevano dentro, per gioco, per scherzo, ma comunque lo facevano davvero, i poveri musulmani nella bocca dell'inferno. Memori, anche nel loro caso, di non aver creduto a Cristo e quindi dovevano essere puniti. Ma la nave dei folli, e poi veramente basta e vi mando a prendere il caffè, poteva, in alcuni casi, essere una conchiglia, una nave galleggiante a forma di conchiglia. Ma capite che non poteva essere l'ostrica, perché l'ostrica era storicamente legata o ai luoghi alti, alle esedre greche e romane, la campana, diciamo, no? La forma più che dell'ostrica, della cappa santa, ed era incredibilmente legata al sacro, alla Venere religiosa, a Maria, era legata ai pellegrini sulla strada verso Santiago de Compostela, era legata al mondo alto, colto, raffinato. Come prendo in giro io la conchiglia della Venere di Botticelli? Come prendo in giro la conchiglia che sta sulla testa della Sacra Conversazione di Piero della Francesca? Usando una cozza. Cioè prendo una conchiglia bassa, che non sia elevata, perché chi la vede deve ridere, memore del significato sacro che ha la conchiglia. Ecco che la nave dei folli può essere una cozza o può essere un'ostrica, peggio ancora, perché ha una conchiglia bruttissima rispetto alla capasanta. E se la nave dei folli è un'ostrica o è una cozza, ciò che nasce all'interno non può essere di estrema bellezza, non è una perla, ma è sasso. E ne parliamo dopo la pausa, in un modo antico di dire olandese, un pazzo aveva dei sassi nella testa. Per curare la pazzia si doveva togliere dalla testa la pietra che l'uomo portava dentro. Ecco che il pazzo, colui che nella testa ha, noi diremo crusca, no? Loro dicevano ghiaia, sassi, viaggia e viaggiando è la nave dei folli e ad abitarla quindi sono questi folli che sono anche giullari. Ma di questo continuiamo a parlare dopo il vostro caffè. Mi spiace, vi sto stordendo. È una cosa che a me appassiona e quindi so che è pericolosissimo. Ci fermiamo per 10 minuti. Chi non avesse già firmato, venga a firmare perché è già passato. Sono questi qua? Sì. Non c'è il 16. Come hai detto tu? Però fa sbagliato una sentita data. Io? Era già la terza volta che vabbè, allora adesso il resto della lezione la fai qui in ginocchio. Sui sassi. Così siamo in tema. A meno che tu non riesca a procurarti delle conchiglie di ostrica. Di cozza. È troppo liscia la cozza. Troppo liscia. Dai, io volevo già truffare per. Vedi. Se volete aprire le finestre, così magari anche abbassiamo la temperatura. Sì, perché c'è da morire. Ma io non dico no. Cos'è? Questo? Adesso volevo chiederle, per il testo scritto che dovremmo consegnare, no? C'è un limite di lunghezza o... Ah, ok, ok. Vabbè. Non fare un tomo enciclopedico? No, solo sì per essere. No. Ok, va bene. Fregata. Metti un po' lì. Se tu l'hai messa per sbaglio, poi io la scrivo, ci metto il tempo scuro. Così lo faccio soprattutto perché ho imparato che con questo sistema qualcuno fa furbo nei confronti degli altri, cioè arriva... Che firma tutto quanto con tutte le date. Esatto. In questo modo non è possibile. No, cioè, io la metto sempre comunque, non la metto. Com'è che sei così spartana oggi? Solo lo yogurt? Eh sì. Perché hai già mangiato tutto il resto. Fanno male tutto il resto. No, lo yogurt è la pausa. Lo yogurt è la pausa. Mi hanno chiesto di chiedere. per medievale, ma sì. I testi vanno metti tutti? Assolutamente sì. Sì, anche oggi mi sono fatta, cioè mi hanno fatto questa domanda. Dice, scusi, ma dobbiamo sceglierne due? Quali due? Quella è la bibliografia. Sono confusa forse quando ho parlato del catalogo, insomma, lì c'era, sì, cioè, sì, era da lì, scegliere qualcosa. Scegliere. Ma se vuole, se lo legge, si sceglie una cosa, se lo va a vedere più che altro. Anzi, l'hanno già messo da parte, così è già pronto per la consultazione insieme a altre cose. Anche. Non è ancora arrivato e non possiamo assolutamente portarlo fuori a studiare una volta. Perché questo di Malevich? No, in generale, quelli della biblioteca. Sì, ma poi se vorrete prendere. Me lo dite, ve li passo alcune cose. Tra l'altro, io sono già, le ho già importate con lo scanner di quel catalogo, ve lo passo. Sì, perché abbiamo chiesto il tono ancora lo so, ho visto oggi e le abbiamo chiesto la signorina se con un'autorizzazione che ha portato fuori una copia, poi si passava la copia, aveva già chiesto, ma niente, non possono essere portati fuori dalla biblioteca, casomai me lo faccio prestare io e poi è andato. Sì, perché una copia più che la si passa, così almeno il libro non c'è mio. Esatto. Una volta sono andata a vedere a segnare. È bellissimo. Vi ho fatto scoprire un posto. Sì, esatto. Visto? Quelli di Bosch,

fermarmi a dormire. Ah no, quanto copre ancora il set? Tendano. Benissimo. Io ho dormito sia a Roma che alla stessa scuola. Hanno dormito? Sì. Sì, devi andare. Quello di Sidi in realtà non so, quello di Roma è sicuro. Perché quello di Roma è proprio in camera qua. Invece era Sisi, era proprio dormitorio, c'era maschi. Ma te la si perdeva. Ah, so, sta succedendo tanto che cosa. Ma se deve ricoprire il vestito. Sì, andiamo molto indicativa, se no ti chiedono una fatta ricca. Aveva lezioni anche di scenografia, perché poteva avere, perché mi sembra una costruzione un po' scenografica. Ah, sono proprio costruzioni scenografiche queste, perché sicuramente sono cose che ha visto tramite. È troppo ben costruito, sembra una scala. Forse questo è il caso di due. Però non esisteva ancora la punta secca in questo periodo, la punta secca viene dopo. Dopo, certo. Anche tu. Ricominciamo? Sì. Quando sono gli esami più o meno? Vediamo, perché non abbiamo ancora parlato, sicuramente ne parleremo bene dopo Pasqua, ma probabilmente, anzi vi dico, io chiederò di poter essere nella prima settimana d'esami e quindi siamo nel, lo so, nella settimana che va dal 16 al 21 di giugno. Perché ho una conferenza al Castello di Rivoli il 19, così cerco di fare un unico viaggio torinese. Devo sentire il professor Beatrice come è messo con i suoi impegni, perché se ce la facciamo di solito andiamo a fare esami insieme. E così. Professor? Beatrice. Contemporanea. Ah, no, io ho fatto con la professoressa di Rivoli. Però noi finiamo lezione la settimana prima. Certo. Quindi abbiamo 4 giorni. Ce la fate? No? Sì, bene. Così ci vediamo. Perché io avrò una marea di ragazzi del triennio, una marea. Ma l'ordine tra triennio e biennio si decide sul momento. Possiamo anche pensare di tenere un'unica lista, in modo anche da essere meno annoiati, però io preferisco sempre dare spazio al biennio in modo particolare, perché sono conversazioni, quindi mi piace che ci sia tempo per poterci parlare, che non si riduca a 10 minuti. Poi appunto il triennio ha anche il preesame, ha lo scritto da fare, quindi tutto. È un meccanismo diverso. Ah, quindi noi non abbiamo lo scritto? No. Ah. No. No, è sincronismo. No, sono i ragazzi di triennio, che avendo tutta la parte istituzionale fanno uno scritto. Per cui abbiamo diviso l'esame in 2 tranche, perché tra l'altro è enorme. Bene, riprendiamo? Ce la fate? Do. Oddio, c'è scritto riprendere o si aspetta? Ormai che si potrà scrivere indietro. Ecco, questa che avete davanti è proprio un'illustrazione di Dürer, della nave dei folli, ed è carino perché la chiama Stultifera. Certo. Charivari, CH, sì, la SH è un CH. Grazie. Prego. Guardate che tra l'altro in Provenza è un tipo di festa che ancora viene praticata durante il carnevale, si chiama proprio Charivari. Anzi, in provenzale, per dire confusione si dice Charivar, per cui è rimasto proprio nel lessico. Oh. Vi dicevo, questa idea appunto della conchiglia che fa da nave, anche questa si tramanda, perché è qualcosa che nasce prima di quando la dipinge Merica. Merica, non fatevi confondere, è comunque un pittore olandese, Pierre van der Heijden, detto il Merica, da America probabilmente, no? Siamo nel periodo giusto. Sappiamo che è una tradizione precedente che rientra nei disegni e spesso nelle xilografie che vengono vendute durante le fiere, che vengono vendute proprio al pubblico, che per ricordo di uno spettacolino, di un racconto, si compra una xilografia. Guardate che questa è una tradizione che ha coinvolto l'intera Europa e che è rimasta fino alla Seconda Guerra Mondiale nel Sud Italia. Il cunto, il fatto di cantare, che so, le gesta dei paladini di Francia, di Orlando, e di avere queste tele dipinte con le varie immagini della narrazione. Capite che poi il fumetto nasce anche da questo, no? Anzi, molto probabilmente nasce in Egitto, se ci pensate. L'idea delle illustrazioni per fasce è già automaticamente l'origine del fumetto. E quindi nasce già in seno alla pittura egizia e poi nella pittura vascolare e poi nella struttura degli spazi, che so, di Giotto, in Cappella degli Scrovegni. Là dove si narri per fasce, per strisce, siamo già in presenza di un'origine poi di quello che sarà il nostro, rispetto all'epoca, volgarissimo fumetto, che però è appunto di ampia lettura, di ampia diffusione. Cosa c'entra? C'entra perché in queste narrazioni, dove di solito c'era una tela dipinta con le varie scene, chi raccontava aveva anche una scatola dentro la quale aveva delle xilografie delle singole scene che vendeva alla fine del racconto e che solitamente uno si portava a casa come ricordo del racconto. Anche queste immagini probabilmente sono figlie di quel modo di fare carnevale, di fare fiera, nella settimana di carnevale c'erano anche le famose fiere, oggi le chiamiamo fiere campionarie. C'era il momento in cui anche l'uomo di campagna si recava in città per vedere le novità, per divertirsi, per bere insieme agli amici e per comprare delle cose. Tra le cose che poteva acquistare c'erano anche queste xilografie. Ecco che quando America, all'interno di una raccolta di stampe importanti, inserisce un soggetto come questo, probabilmente riprende qualche cosa che ha già visto fare e che si fa almeno da 100 anni. Questa è un'immagine che poi riprenderemo perché ci serve per spiegare proprio la nave dei folli. Quella che avete di fronte, vi dicevo, è proprio un'incisione di Dürer inserita dentro alla nave dei folli di Sebastian Brandt. E la chiama appunto Stultifera Navis, nave degli stolti. Queste navi possono avere forme molteplici. In comune hanno sempre giullari, persone che bevono, monaci o monache, e hanno sempre persone che stanno mangiando. E qui abbiamo necessità di andare per capire a vedere anche altri testi. Beh, innanzitutto vi ripeto l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Sono andata a vedere, scritto nel 1508, dato alle stampe nel 1511, ho sbagliato di 4 anni. Non solo, ricordatevi che siamo anche nel periodo in cui, per esempio, in Inghilterra Thomas More dà alle stampe Utopia, Utopia. C'è quest'idea di follia che serpeggia in tutta Europa, e in entrambi questi testi, quello di Erasmo in modo particolare, che è un testo satirico, prende in giro coloro che si credono saggi, spesso si parla di monaci che confondono l'amore spirituale con l'amore carnale, oppure parla anche di ecclesiastici, cita anche il Papa Erasmo, infatti verrà tacciato d'eresia, che per ampliare i propri territori dichiarano guerra e fanno morire la gente. È un controsenso, perché se tu sei il Santo Padre, non mandi uomini a morire per il tuo regno, cerchi di proteggere e invece tutelare la vita. Erasmo, insieme a Thomas More, o Tommaso Moro, così come ce lo fanno chiamare sempre anche a scuola, denunciano anche questo aspetto della Chiesa cattolica, che sarà uno dei tanti punti cruciali anche per lo scisma. Il fatto di non essere coerenti, di non essere in linea, di travisare anche le sacre scritture. Non è improbabile che per questo motivo sulla nave dei folli non manchino mai chierici ubriachi o chierici che facciano avance a delle monache o monache che allunghino le mani, soprattutto verso natiche maschili. Questo lo troveremo anche in Bosch. Lo troviamo proprio menzionato nei testi che ci fanno studiare a filosofia, ma che sono indispensabili per capire immagini come queste. E sappiamo che molto probabilmente, ed entrambi, sia More che Erasmo, in un certo senso lo citano, precedente a questa pubblicazione, precedente alla nave dei folli di Sebastian Brandt, fosse girato praticamente per tutta Europa un altro piccolo testo, manoscritto, quello all'inizio e poi dato alle stampe a fine 1400, di un olandese intitolato La nave azzurra. E anche lì si parla di demenzialità. Anzi, La nave azzurra è una nave carica di libertini, di uomini dei facili costumi, messi al bando dalla cittadinanza e anche in quel caso caricati tutti su una nave e spediti alla deriva. Guardate che era anche una delle tante pene che potevano essere inflitte, quello di essere messi su una barca senza remi, senza acqua da bere e portata al largo e lasciata alla deriva. Una delle tante punizioni nelle quali si poteva incappare, vivendo ovviamente in città portuali del nord Europa, dove una sola notte in barca, soprattutto in determinate stagioni dell'anno, è morte certa, si muore assiderati. Per chi ci interessa quest'opera fra le tante che avremmo potuto vedere di Merica? Perché in questa nave dei Folli abbiamo un albero al quale è appesa una ringa, è appesa anche una brocca e, cosa incredibile, abbiamo anche una civetta. Allora, brocca, ringa, riusciamo a spiegarle proprio grazie al testo della Nave Azzurra, dove si parla di quest'albero al quale si va ad appendere una ringa, che ricorda Quaresima, la ringa, vero? È uno dei cibi che vengono mangiati l'ultimo venerdì di Carnevale, così come il baccalà, per esempio. E la caraffa, la brocca, ricorda il vino, che può essere Bacco, ma può anche essere Priapo, perché una delle tante usanze che c'erano nell'antichità, nel culto priapico e quindi, vero, nella, anche nell'idea religiosa della lussuria, del sesso sfrenato, delle orge, del fatto di avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio, con più persone, per cui rapporti promiscui, vedeva il culto della statua di Priapo con il lancio di brocche di vino sulla statua o il lavaggio della statua di Priapo con il vino. Nella Nave Azzurra ci viene descritta questa sorta di albero della cuccagna al quale, fra le tante cose, vengono appese anche aringhe e brocche di vino. Ma la civetta non ce la spiega nessuno. E questo gufo civetta sarà una costante nelle opere di Hieronymus Bosch. La civetta ha due significati. Un significato umanistico, rinascimentale, se volete, che è legato alla lussuria, quanto l'ermellino, per capirci. Perché è un animale notturno, perché è un animale che spaventa, è un animale, essendo notturno, legato al diavolo, alla tentazione. Secondo alcune credenze, anche italiane, il canto della civetta sarebbe monito di morte. Ancora oggi nella tradizione proprio della pianura padana, per esempio, no, la civetta che canti posandosi poveretta sul davanzale di una famiglia porterà morte all'interno di quella famiglia. Povera bestia, da qualche parte dovrà bene appoggiarsi pure lei. Ma non dimentichiamoci però anche del significato antico della civetta. La civetta era l'animale sacro a Minerva. Rappresenta l'intelligenza. La civetta ha occhi che vedono nel buio, è la sapienza, ciò che vede là dove gli altri non vedono. E non sappiamo quale delle due letture dare, sia sulla Nave dei Folli sia in Bosch. Se ci pensate, potrebbero essere entrambe le cose. Perché perdita dell'intelligenza, meglio, perdita della saggezza, significa perdere la vista della conoscenza, l'annebbiamento. E quindi la civetta potrebbe essere ciò che si è perso. Infatti sta quasi sempre dentro degli alberi. ma potrebbe anche essere, diciamo, una sorta di maligno che incombe, una sorta di tentazione, vigile. Perché tutto questo? Perché appunto Hieronymus Bosch dipinge la nave dei folli. Nave dei folli interessantissima e incredibilmente legata, se notate, alla nave di Merica o del Merica, come preferite. Come funziona? Beh, a livello di costruzione siamo assolutamente nella costruzione canonica, vero? Un terzo della superficie per il cielo, due terzi per la parte, diciamo, di terra. Se preferite le tre fasce, diciamo un quarto e mezzo per il cielo, mezzo quarto per l'acqua e due quarti per la terra. Questo è mare, questa è acqua. Abbiamo una barca, riuscite a vederla? Bizzarra, il cui albero non è l'albero maestro, non è un albero di vela, ma è un albero finto, posato sulla barca. Questo addirittura è finto due volte, perché è un doppio albero, se notate. L'albero che proprio ci dà la prima chioma e il secondo albero, all'altezza del cespuglio, vedete un innesto, come se non fosse largo abbastanza e ci avessero appoggiato un altro pezzo di chioma. Per cui un albero che non c'è e che ovviamente non può nascere stando dentro una barca. È un controsenso, vero? Far navigare gli alberi o far spostare gli alberi. È una di quegli elementi, uno di quegli elementi che appartengono al mondo alla rovescia, che funzionano a carnevale. È un controsenso. Nella chioma alta, proprio nascosta, abbiamo la civetta. Eccola qui. Che guarda verso l'osservatore. Se notate, più o meno siamo alla stessa altezza, tra l'altro, della civetta di Merica, nel senso della stessa posizione sul lato destro del lavoro, dentro l'albero. Chi sono i vari personaggi? Abbiamo un uomo che sta sbucando dalla chioma degli alberi per andare a tagliare questo che molto probabilmente è un pollo. 1494-92, dura che sia un tacchino, vero? Non lo vedo. Questo. Un pollo. Questo qui, se lo guardate bene, ha le zampe, le ali, è stato spennato, è un pollo cotto, legato all'albero. Se non riuscite a vederlo, compito per casa. Io posso anche ingrandirvelo, così lo vedete che è un pollo cotto. Lo vedete che qui ha le zampe inferiori, le ali, ed è cotto. Guardate che rientra nell'albero della cuccagna, l'albero cotto. Abbiamo tutta una serie di leggende popolari che parlano di cibo cotto che nasce sugli alberi. Il mondo di cuccagna è un mondo dove dagli alberi noi possiamo raccogliere qualsiasi cosa già pronta per essere mangiata. E è tra l'altro un tipo di tradizione popolare che coinvolge l'intera Europa, est europeo compreso, fino agli inizi del 1800, fine 800 anche. Cos'altro abbiamo? Abbiamo una brocca vuota infilata su un palo, e non è l'unica brocca di tutto l'elaborato. Abbiamo una bandiera che non ci dà nessuno stemma, cosa che invece troveremo più volte qualcuno riconosce, vedete in questo segno, una mezza luna che ricorda il mondo islamico. Rientra nella follia, rientra in questa sovrapposizione tra mondo ebraico e mondo musulmano di cui dicevamo poco fa. Teniamo il giullare per ultimo. Queste donne velate sono monache. Il mondo alla rovescia. La donna di fede, colei che resta chiusa nel monastero, viaggia sulla nave dei folli. Una se la sta prendendo con un uomo che sta ripescando dal fiume una damigiana, per cui un contenitore che dentro ha del vino. L'altra sta facendo due azioni. Una è quella di mangiare questa pagnotta che penzola sempre da questa sorta di albero della cuccagna. Ricorda un po' il gioco della mela, no? Una mela appesa ad un filo, mani legate dietro la schiena e bisogna riuscire a mangiarla senza prenderla con le mani. Ma l'azione che, perlomeno ai miei occhi, è la più sconcia della situazione è che questa monaca sta suonando un liuto. Allora anche qui bisognerebbe scrivere solo se si sa. La maggior parte degli storici che scrivono di questo liuto dicono che questo liuto è un rimando all'organo genitale maschile. Può essere. Ma non sanno proprio niente di storia della musica quelli che scrivono questo, perché abbiamo detto già che il liuto invece è lo strumento alto, di corte, raffinato. È lo strumento suonato da trovatori e trovieri, insieme alla lira, spostandosi da una corte all'altra. È uno strumento che noi conosciamo con disegni di liuterie, eccetera, dal 1500, ma che nasce sul finire del 1300. E poi ha tutta una serie di modificazioni nell'epoca barocca e muore definitivamente agli inizi del 1700, uno strumento che poi verrà soppiantato da altri strumenti. Non funziona questo liuto in mano di una monaca, perché vabbè, se gli diamo una valenza sessuale ci sta, perché siamo nel mondo alla rovescia, monaca votata appunto alla castità, che si diverte con un oggetto che è rimando di un organo genitale maschile. Ai miei occhi invece è molto più oltraggioso ricordarla invece come un oggetto prima di tutto maschile. Nella tradizione forse solo le dame ferraresi suonavano il liuto, 1420-1450. Ma non è uno strumento che solitamente venga utilizzato al femminile, erano i maschi a suonarlo. Erano i maschi che potevano spostarsi da una corte all'altra cantando e recitando poesie. È fuori luogo perché questo è uno strumento laico, tanto per iniziare. Non conosciamo musica sacra composta per liuto, non ce n'è, che io sappia perlomeno. E quindi in mano ad un'ecclesiastica stona in modo considerevole, ed è uno strumento che appartiene alla sfera mondana, cioè che appartiene tra l'altro a quel tipo di musica che è legato all'amor cortese, che è legato quindi alla serenata, alla chanson amorosa. Non c'entra niente con la monaca, è esattamente il contrario, è quello che la monaca ha deciso vestendo i panni monacali e prendendo i voti di lasciare, di rinunciare. E quindi è come se lei avesse in mano uno strumento fortemente laico, legato all'amor cortese, legato alla dichiarazione amorosa, essendo ecclesiastica. Stona molto più che l'idea dell'organo genitale maschile, che è abbastanza banale come lettura, secondo me. Chi sono gli altri? Beh, di fronte a un monaco, un francescano, che mangia, che cerca di mangiare tanto quanto lei questa pagnotta appesa, e si preoccupa anche, se notate, di tenere ben saldo l'albero. Vari storici ne hanno dato una lettura legata alla gola, ed è uno dei peccati capitali la gola, vero? Il fatto di voler mangiare, di non accontentarsi e di farlo giocando, per cui doppiamente un errore. Non sono i soli, se notate, a voler mangiare da questa pagnotta, abbiamo altri due personaggi e forse anche un terzo, che hanno bocche aperte, proprio nell'atto di riuscire ad addentare questa pagnotta. Abbiamo poi, nella parte inferiore, due uomini nudi, e ricordatevi, la nudità appartiene al demoniaco, vero? Appartiene all'inferno, appartiene anche a delle pene che venivano inflitte. Era proprio un modo drammatico per umiliare la persona, ancora oggi lo è, no? Nelle carceri, quando si fa denudare un detenuto, è per umiliarlo. Se è fortunato, è solo per umiliarlo. Per cui queste nudità ci dicono già di qualche cosa che non è pulito. E stanno in acqua, che di fatto probabilmente acqua non è. Molto probabilmente è brodo o è vino. E questo lo capiamo grazie al testo della Nave Azzurra, che ci parla di fiumi di brodo da bere. E ci parla anche di mari di vino. Rientrerebbe nel baccanale, rientrerebbe, no, anche nel culto orgiastico di Bacco, non di Dioniso, di Bacco. Ecco che allora andremo a giustificare questa ciotola che viene fatta uscire dall'acqua, dal liquido, diciamo, e alzata verso l'alto, ma andrebbe anche a motivarci un remo che in realtà è fatto a cucchiaio. Ci spiegherebbe anche l'idea della damigiana che viene ripescata, anche se, vero, mettere comunque damigiane in acqua era tipico per tenere le bevande fresche, si fa ancora adesso, e a farci capire che tutto questo è comunque un azzardo, un di più, ce lo racconta questa figura che troveremo in America, ma che troveremo anche in altre rappresentazioni della Nave dei Folli, che è un personaggio alla nostra destra, quasi sempre alla nostra destra, che sta vomitando, tipico di chi ha bevuto troppo. La parte destra, ricordatevi, è sempre la parte negativa, quella che è alla nostra destra e quindi quella che è la sinistra del quadro. Il giullare. Oh, questo giullare ha un sacco di difetti. Vesti di giallo. La sua gonna è sfrangiata, è a frange. Dobbiamo pensare secondo la mentalità tardo medievale. Le righe appartengono al diavolo, quindi anche le frange. Le righe spezzano l'ordine. Figuratevi la scacchiera, ma questo già l'abbiamo detto più volte. Le frange sono delle strisce, è come se fossero delle righe, anzi peggio ancora. Perché da una pezza unica io faccio brandelli. E quindi anche questo è poco in linea con l'etica morale. Vi rendete conto di quanto erano fuori? Porta un copricapo con le corna, per cui ci ricorda appunto le due estremità del cappello a due punte. Sta bevendo una ciotola che è identica a quella dell'uomo che è all'interno del liquido, proprio la stessa, solo più piccola, ma vedete che è dello stesso materiale. e ha, pensate un po', un bastone che ricorda un po' quello che poi sarà lo scettro del giullare, con una testa nella parte superiore, tipica dello scettro del giullare. Nell'iconografia, anche rinascimentale, là dove il giullare abbia uno scettro, lo scettro ha una testa, o tre teste addirittura. Perché non è lo scettro imperiale, non è lo scettro del potere, è lo scettro della burla, della presa in giro, del buratto. È un bastone burattino che serve per ridere, per far ridere. Potrà anche avere dei sonagli questo scettro, potrà anche avere dei nastri. Occhio, vero? Perché il nastro non è un abbellimento, è un pezzo di frangia e quindi appartiene sempre a qualche cosa di molto tendenzioso, di diabolico il nastro, che solitamente è giallo o verde. Non è qui presente, ma sappiate che nell'iconografia canonica possiamo trovarlo. Ora capite quindi che quello che sembra una tavola di studio, un gioco, in realtà è veramente il riassunto di un mondo parallelo a Bosch in quell'epoca, ma anche di un mondo precedente a Bosch, perché senza tutto quello che ci siamo detti sul passato, sull'alto medioevo, sulla tradizione antica, noi non capiremo quasi niente di questa tavola. Noi vedremo semplicemente un'allegra brigata che si sta divertendo, cantano e suonano, bocca aperta significa sia mangiare che cantare, perché di fatto noi non ce l'abbiamo un sonoro, non lo sentiamo il rumore che stanno effettuando, bizzarra, niente di più. Invece ricordatevi che ogni volta che siamo in presenza di opere come queste, noi dobbiamo farci mille domande e cercare mille origini. La tavolozza dei colori è una tavolozza cupa, è una tavolozza bruna. Abbiamo dei rosati, dei rossi bassi, e se notate, pur essendo un'allegra brigata, almeno a me, non dà un effetto di gioia. Cioè non è un'ambientazione divertente, non ci fa venire in mente una carnevalata. Sembra invece una cosa molto seria e quasi cupa, non dico drammatica perché sarebbe esagerato, ma non è gioiosa. E in questo, al vero, la tavolozza dell'olio scelto è importante, determinante, oltre che all'espressione di questi volti. Sono tutti molto impegnati a fare qualcosa, a tagliare, a mangiare, a vomitare. Nessuno si sta divertendo alla situazione, nessuno si sta trastullando, non è un momento di passatempo, di tempo libero, sembra quasi un mestiere, un lavoro, una cosa seria e impegnativa. Un'anomalia, se notate, qui Bosch si preoccupa di darci le cangianze degli oggetti, le brocche, questi bicchieri, le ciotole che loro hanno in mano, la damigiana, ma non ha niente a che vedere con la lucentezza degli oggetti in ottone o in oro che abbiamo visto nelle altre tavole fiamminghe. È come se lui ci desse volutamente degli oggetti di metallo che brillano, ma non del fulgore divino. Non sono gialli, sembrano in latta, sembrano in alluminio, sembrano in peltro. Tra l'altro lega che inventarono, se non vado errato, proprio i fiamminghi. Di conseguenza c'è la memoria di quest'idea che l'oggetto luminoso ricalchi la luce di Dio, sia fulgore di Dio, ma questa è una luce sorda, perché è una luce grigia, è una luce che viene da un metallo che non è nobile e che non è dorato, non è giallo. Inoltre abbiamo un altro elemento che sarà, vedrete, una sorta di tormentone in molte delle opere di Bosch che andremo a vedere. Il piatto pieno di ciliegie, queste sono ciliegie. Noi le ciliegie le abbiamo viste a volte in mano a Gesù bambino. Lì hanno un significato di resurrezione, tanto quanto la mela o la melagrana. L'idea che appunto la ciliegia sia un frutto che custodisce un nocciolo e che se piantato possa germogliare, per cui dà frutto, ricorda la resurrezione. Qui no, in Bosch quasi sempre, su questo gli storici sono proprio concordi, la ciliegia ricorda la lussuria, tanto quanto sarà il lampone, tanto quanto sarà la mora. È un rimando all'organo genitale femminile. Rappresenta anche la golosità. Ancora oggi noi diciamo che una ciliegia tira l'altra. E quindi se ci pensate, con tutto quello che ci siamo detti oggi, o che meglio ho detto, è un elemento fluax, è un elemento che presenta l'insaziabilità, il fatto che per quanto tu ne mangi, non ne mangi mai abbastanza. Io aggiungerei fino a quando non ti prende una colica, ma la colica non rientra nel carnasciale. Il vomito rientra nel carnasciale. E attenzione, vomito in questo caso, in altre situazioni anche la dissenteria, perché rientra in una situazione non di malessere, ma di eccesso. Io mi riempio talmente tanto che non riesco a tenere quello che ho mangiato e ho due modi per poterlo espellere, vomitando o defecando. Saranno due elementi che apparterranno non solo ai dannati e a coloro che sono in peccato, non sono in grazia di Dio, ma che apparterrà anche al diavolo, al demonio. Il diavolo nei vari inferni che noi vedremo in Hieronymus Bosch costantemente sta defecando uomini, sta defecando mostri. E capite che ciò che viene espulso mi è stato dentro ed è parzialmente parte di quello che sono. Se partorisco un mostro, quel mostro per metà l'ho fatto io e quindi anch'io sono mostro. Pensate un po' quanto una semplice ciliegia possa raccontarci in una tavola come questa. Ovvio, vero? Io non lo capisco da questo quadro, lo capisco da tutto quello che ha dipinto, che ha già dipinto e che ancora non ha dipinto quando lavora a questa specifica tavola, alla nave dei folli. Per cui, da qui in avanti, quello che vedremo dovremo sempre leggerlo in un contesto e ricordarci, in ogni caso, non dimenticatelo mai, che appartiene ad una tradizione precedente e che possiamo parlarne perché appartiene a una tradizione precedente, perché Bosch non ci ha lasciato una sola riga di spiegazione di quello che dipinge, mai. Quindi teniamo conto anche di questo. Potremmo dire anche delle perfette sciocchezze, e uso il plurale perché vi racconto cose che io condivido, ma che sono state scritte da altri. La nave dei folli è solo l'opera dalla quale noi partiamo per parlare di questa artista. Quindi organizzatevi, perché da qui in poi vedremo di tutto e di più. E io direi anche per oggi, se siete d'accordo, di fermarci, perché partire con un'altra opera significherebbe poi fermarci a metà. Settimana prossima è vacanza, quando ritorneremo, giusto così per festeggiare Pasqua, andiamo a riprenderci, quindi vi invito, se avete voglia e tempo, di andarvela a vedere. Andiamo a riprenderci la Pala San Zeno, ci vediamo la predella e torniamo anche, per arrivare di nuovo a Bosch, da qui in poi continueremo a fare avanti e indietro su Bosch, andiamo anche a vederci quella Trinità che abbiamo lasciato sopra il camino della Pala di Verle di Campin o Campen, come preferite. Questo ci servirà per parlare della crocifissione di Hieronymus Bosch. Vi ho già dato l'indice della prossima puntata. Buone vacanze a tutti. Per chi è di culto cattolico, buona Pasqua. Per chi è di culto ortodosso, non ancora. Arrivederci. Recupereremo, perché vi sto regalando un quarto d'ora, non va tanto bene questa cosa. Ma poi anche la lezione. Sì. Ah, scusate, per quanto riguarda la lezione da recuperare, se allora abbiamo due possibilità, anche tre. Possibilità A: ci vediamo un martedì mattina, perché fare magari un mercoledì mattina e farvi 6 ore di Moderna mi pare veramente massacrante. Ci vediamo un martedì mattina, tarda mattinata, e facciamo 2 ore. E lo facciamo per 2 volte però. Facciamo un'ora in più, non muore nessuno. Scusi, tutta salute. Martedì mattina. Potrebbe essere, dobbiamo capire in che aula, perché questa è occupata. Possibilità B, che mi è stata proposta, io non ho tanta voglia di proporvela, però mi è stato proposto, aggiungere un'ora a queste lezioni per 3 volte. Reggete 4 ore con me? Io sì, voi non so. Io sì, cioè, con pausa più lunga magari. Sì, certo. Ma possiamo anche prenderci una pausa di 15 minuti, che di fatto poi sono 25 vedendo l'andazzo. Ma ce la fate per 3 volte? E quindi anziché finire alle 4, finire alle 5? Quale delle due possibilità? Avete idea? Non so. Io a marzo non ce la faccio. Ecco, andiamo per maggioranza. Chi pensa di preferire le 2 lezioni al mattino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi preferisce aggiungere un'ora? Ops. La maggioranza. Poi un po'. Cioè una mattina martedì e poi un'ora aggiunta, così, no? Sì, perché no? Così magari anche chi non può il martedì non si perde proprio tutto. Ovvio, vero ragazzi? Quando facciamo 4 ore il thermos di caffè è obbligatorio. Io non posso proporvi le anfetamine che non vengono più prescritte dai medici, non sarebbe corretto. Il caffè sì però, vi prego. E arrivate anche avendo pranzato tanto prima, in modo da non avere il crollo della digestione. Quando iniziamo a fare l'ora in più? Volete? No, ve lo dico subito. La prima subito dopo Pasqua, non credo. Facciamo già da quella dopo? Oppure vi faccio la sorpresa e lo facciamo già dalla prossima volta? È perché ho già prenotato un ritorno, vi dico solo per quello, non mi ricordo. Una delle 2 lezioni ho prenotato un treno alle 6. La prossima lezione è il 30? Il 30. Oh, io non faccio ponti. Il 30 c'è lezione. Il 1° maggio è un altro giorno. Sì, o il 7 è quella dopo. O il 7 è quella dopo. O il 30 o il 7. Sì, va bene? Organizzatevi, il caffè portatelo sempre comunque, che sapete che serve lo stesso, anche solo per le 3 ore. Sì, la prossima lezione è il 30. Quindi il 30 facciamo 4 ore? E io non mi ricordo, vi dico la verità. Se volete poi lo metto su Facebook. pagina Facebook dell'Accademia e vi racconto. Quindi due lezioni con un'ora in coda e una al mattino. Sì, va bene così? Va bene a tutti? Però il martedì non abbiamo. Il martedì devo vedere in che aula possiamo farlo, perché non siamo pochi. E quindi bisogna capire dove. Chi non ha firmato si ricordi di firmare, per favore. Buone vacanze a tutti. Grazie. Hai iniziato anche a registrare, eh? Come? Deve essere...